Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Si intitola Edisse, l'ultimo libro di Harry De Luca pubblicato da Feltrinelli. Si tratta di un racconto lungo, 90 pagine, in cui lo scrittore ripercorre un episodio delle Sacre Scritture, il momento in cui Mosè sale sul Monte Sinai per ricevere le tavole della legge. Come è nata l'idea di scrivere questo libro? Sentiamo Harry De Luca. Dalla volontà di raccontare questo momento speciale della storia sacra, in cui quella divinità che fino allora si era espressa molto intensamente con le sue parole, il verbo che ricorre più spesso riferito alla divinità nell'Antico Testamento è disse, disse, disse, e in quel punto il dire della divinità diventa scrittura, diventa inciso in maniera indelebile su delle pietre e poi nel fondamento della nostra civiltà religiosa. Ecco, lì avviene una trasformazione nel rapporto tra la divinità e le creature alle quali intende rivolgersi. Che valore ha appunto questo Edisse che poi dà il titolo al libro? Edisse è la più frequente manifestazione fisica della divinità, perché il dire della divinità è fisico. E molto spesso la divinità irride agli idoli che hanno le orecchie e non sentono, la bocca e non parlano, gli occhi e non vedono, eccetera. La divinità invece ribadisce la sua fisicità, è presente, è continuamente presente in quella storia, e la sua manifestazione più intensa è appunto la parola. La sua parola che fa avvenire il mondo, la divinità dice, anche quando non c'è nessuno che l'ascolta, dice e sarà luce, al verso terzo della scrittura sacra in Genesi Bereshit, dice e sarà luce, e solo attraverso la sua parola quella luce avviene. È la sua parola che fa avvenire le cose, che fa avvenire il mondo successivamente. Tutti i 6 giorni della creazione sono preceduti dalla voce, dalla parola della divinità che prima li annuncia e poi li compie. L'episodio che lei appunto narra in questo libro, Edisse, è il momento in cui Mosè sale sul Sinai e riceve le tavole della legge. Che tipo di Mosè lei ci presenta in questo libro? Un Mosè più fedele possibile alla scrittura sacra. Beh, intanto è un alpinista, è uno che sale spesso in montagna, e la divinità ama rivolgersi a delle persone che si trovano in una condizione di isolamento. Per quello sceglie tra i suoi preferiti all'inizio i pastori. I pastori sono quelli che stanno nelle vastità da soli e devono avere tutti i sensi allertati per cogliere i segnali, i pericoli dell'ambiente. Dunque Mosè è un pastore, ma è stato anche un assassino, perché lui ha ucciso un egiziano in un impeto d'ira. Quando vede un egiziano che maltratta, che perseguita un ebreo, ha un impeto d'ira e uccide questo egiziano. E prima ancora di questo lui è stato l'unico salvato di uno sterminio di bambini, di neonati maschi, avvenuti per opera di quel faraone imbizzarrito che così pensava di controllare la crescita demografica di quel popolo. Dunque è molte cose insieme. Ma prima di tutto, ecco, partendo dall'inizio, lui è un salvato che salva, è un salvatore che salva. Lui salvato, però Mosè quel nome vuol dire colui che salva. Lei si definisce spesso anche nelle interviste un non credente, però è fortemente appassionato di scritture sacre, le studia. Che rapporto ha con queste scritture? Un rapporto di lettore assiduo che si è andato a pescare il formato originale di quelle prime di quella scrittura in cui il monoteismo si è impresso per la prima volta. L'ebraico antico è la veste con cui si è impresso per la prima volta l'Antico Testamento. Sono un non credente, cioè uno che esclude la divinità dalla propria vita. Non mi posso rivolgere alla divinità, ma non la escludo dalla vita degli altri. Penso che le persone di fede possono avere una tra le tante notizie che io non possiedo, possono avere una intimità con una presenza che io non avverto. Quindi sono un non credente. Faccio distinzione tra non credente e ateo, perché ateo è invece uno che esclude la divinità dalla sua vita, ma anche da quella degli altri, elimina come possibilità anche dalla vita degli altri. No, io mi limito a escludere me stesso. dalla relazione. E questo era R. De Luca, ora in libreria con Edisse, pubblicato da Feltrinelli. Veniamo ora a un libro pubblicato da una piccola casa editrice, Fernandella. Si intitola Spargere il sale, descritto da Gianluca Morozzi. Un bel libro, ironico e divertente, che contiene 13 racconti divisi in 3 gruppi, come ci spiega l'autore. Sono 13 racconti divisi in 3 sezioni differenti. La prima sezione si chiama Elena e tratta una storia d'amore che rinasce, si stabilizza, decade e muore in 4 fasi. Il secondo gruppo di racconti parla di strani modi per vivere, ovvero fare gli scrittori, i musicisti, i fumettisti e ciò che queste strane scelte di vita comportano. Il terzo gruppo di racconti si chiama Donne e riguarda 3 donne che non sono Elena, evidentemente, con importanti problematiche sociali e di relazione tra uomini e donne, quali per esempio un uomo con l'alitosi e una donna sensibilissimo al fatto. Tematiche importanti. Tematiche importantissime, sempre con il tuo stile ironico, direi. Sì, assolutamente sì. L'idea del libro è questa, insomma, essere leggeri, ironici, senza essere stupidi. Profondità può essere anche molto divertente, divertita. Ecco, l'ironia è un po' la caratteristica della tua scrittura, vero? Sì, io ho 2 fondamentali, come posso dire, registri stilistici. Quello divertito, ironico, grottesco, quasi comico, e quello invece durissimo, che ho fatto in Blackout, in Cicatrici, il Vangelo del Coyote, in cui invece tiro fuori la mia anima più dark. Però mi piace molto barcamenarmi a questi due registri, un po' come Andrea Pazienza, che passava tranquillamente, paragone un po' importante, che passava tranquillamente da Zanardi e Pompeo a Pertini e Pippo Tossico, quindi passava dall'umorismo assoluto al dramma più bieco. Insomma, nella tua carriera ci sono cose molto originali. Ricordo per esempio un thriller che era ambientato in un ascensore. Esattamente, Blackout, che era la mia anima nera, assolutamente, ecco, in cui c'era davvero pochissima ironia, anzi nessuna, c'era della cattiveria, ma sai, mi piace giocare sul doppio versante, come ti dicevo. Allora, tornando invece a questo libro, Spargere il sale, come ti è venuta l'idea di fare appunto questi racconti divisi in gruppi? Avevo una serie di racconti che erano usciti sparsi e quasi introvabili tra riviste, antologie, piccoli editori, siti internet, un paio di inediti, un racconto letto solo in radio, mai stampato su carta. E quindi mi sembrava carino per i miei lettori, anche, insomma, anche per me, metterli insieme insomma, e dando una specie di tema, o 3 temi in questo caso, radunandoli per tematiche, e alla fine è venuto fuori un bel risultato, secondo me molto organico a suo modo. Ecco, la protagonista femminile del primo lungo gruppo di racconti è questa Elena, addirittura il protagonista maschile, cioè dovresti essere tu più o meno, insomma, o meno, un tuo sì, alter ego, sì. Divide la sua vita con Elena in 2 fasi, diciamo, Elena 1.0, Elena 2.0, insomma, che rapporto c'è fra il tuo alter ego e questa Elena? Ma con 2 fasi ulteriori, che sono la fase pre-elenica, quando ancora non conosceva neppure Elena, e poi l'interregno tra la 1.0 e 2.0, quando Elena, che è la fidanzata del protagonista, a un certo punto, lei che canta in un coro multietnico, si innamora del direttore del coro e va a abitare con lui. Questa è la fase interregno in cui i due si lasciano, e lui, il protagonista, che è un uomo molto saggio a suo modo, anche se non si direbbe spesso, segue 2 metodi fondamentali, che sono aspettare il cinese sulla sponda del fiume, ovvero aspettare che il rapporto tra Elena e il direttore del coro decada, come ovvio che sia per lui. Certo. E intanto spargere il seme in giro per l'Italia e divertirsi abbastanza, e intanto Elena tornerà, e infatti Elena torna. Torna, però fra i due si instaura un rapporto diverso. All'inizio, diciamo, lui era molto sulle sue, dopo diventa quasi uno zerbino, insomma. Sì, nella fase 1.0 lui era davvero molto gaudente, un po', non dico stupidotto, però la prendiamo tra leggera. In fase 2.0 è zerbinato completamente, ovvero fa cose ignobili, si sveglia la mattina presto per andare a prendere cartoni da trasloco, fa di tutto quello che lei chiede, perché la riconquista era importante per lui, evidentemente. Poi vedremo nei racconti successivi che comunque tornerà a sedersi un po', come capita spesso agli uomini quando non sono sotto pressione. E questo era Gianluca Morozzi, autore di Spargere il sale. Anche per oggi è tutto, vi ricordo che trovate queste e le altre puntate del Cacciatore di Libri su www.radio24.it. Ci trovate anche su Facebook. Un saluto da Alessandra Tedesco.